angoscia in petto. Scrivi, signor, mia luce, mia fauna, quel bel viso, ove scherza il vento in riso. Mia luce, ira quelle brune stelle. Io già scrissi, mia luce, mio tesoro, mira quelle brune stelle. Mio tesoro, che il suo cuore abbinde, abbinde, pesa e tutto fa vinde. Mio tesoro, per te mi struggo e moro. Sì, sì, dolce amore mio, esca dei miei desideri, contro dei miei sospiri, dalle mie pioni, amabile ristoro. Per te mi struggo e moro. Più adagio, se tu vuoi che io scriva tutto ciò che mi dicesti. Non scriverò, no. Son questi i soliti deliri, color ma per me solo mio, vede solo che splende. L'incauto non mi intende. E moro, ho scritto. Tu il mio ben, tu il cor mio, tu la mia vita, sì, tu sono, tu sei. Ma quanto dico più, meno comprendi. Forse crude il tuo ben. Sì, scrivi e intendi. Tu sei, ma poi che siego è? Che quanto il dico più, meno comprendi. Dovrei intendermi al fin. Ho scritto e inteso. Intendesti? Sì, oh bello. E che ti pare? Che non posso che il cor non t'adorare. Come felice. Sperar posso. E puoi sperar d'essere intesa e corrisposta. Non più. Ma quando? Allor che questo bambino anetra il crudel, le tenerezze tue si ben espresse. Ah, credevo ben io che mi intendesse. Vuoi che più seguo? Basta, scriverò pace in nome. Io parto in te confido. Constatirò però quanto conviensi.